Dopo lo straordinario successo di Benedizione e della trilogia della pianura, Kentaroff torna nella contea di Holt con il racconto di una storia d'amore tenera e ribelle. Le nostre anime di notte, NN Editore, dal 13 febbraio in tutte le librerie. Ad alta voce. Moni Ovadia legge Il nome della rosa di Umberto Eco. Terzo giorno vespri, dove si parla ancora con l'abate. Guglielmo ha alcune idee mirabolanti per decifrare l'enigma del labirinto e ci riesce nel modo più ragionevole. Poi si mangia il casio in pastelletto. L'abate ci attendeva con aria scura e preoccupata. Aveva in mano una carta. «Ho ricevuto ora una lettera dall'abate di Conches», disse. «Mi comunica il nome di colui a cui Giovanni ha affidato il comando dei soldati francesi e la cura dell'incolumità della legazione. Non è un uomo d'arme, non è un uomo di corte e sarà al tempo stesso un membro della legazione. Raro connubio di diverse virtù», disse Guglielmo inquieto. «Chi sarà?» «Bernardo Gui, o Bernardo Guidoni, come volete chiamarlo». Guglielmo esplose in un'esclamazione nella sua lingua che non capì né la capì l'abate, e forse fu meglio per tutti perché la parola che Guglielmo disse sibilava in modo osceno. «La cosa non mi piace», aggiunse subito. «Bernardo è stato per anni martello degli eretici nel Tolosano e ha scritto una Practica Officii Inquisitionis Heretice Pravitatis ad uso di tutti coloro che dovranno perseguire e distruggere Valdesi, Beghini, Pinzoccheri, Fraticelli e Dolcignani. Lo so. Conosco il libro, mirabile per dottrina». «Mirabile per dottrina», ammise Guglielmo. «Sì», disse l'abate, «ma se non troviamo entro domani il colpevole di due, o forse di tre delitti, dovrò concedere a Bernardo di esercitare una sorveglianza sulle cose dell'abbazia». «È vero», mormorò Guglielmo preoccupato. «Bisognerà vigilare su Bernardo, che vigilerà sul misterioso assassino. Ma forse sarà un bene. Bernardo, occupato a badare all'assassino, sarà meno disponibile per intervenire nella discussione». «Bernardo, occupato a scoprire l'assassino, sarà una spina nel fianco della mia autorità, ricordatevelo. Questa torbida vicenda mi impone per la prima volta di cedere parte del mio potere entro queste mura. Ed è un fatto nuovo non solo nella storia di questa abbazia, ma dello stesso ordine cluniacense. Farei qualsiasi cosa per evitarlo, e la prima cosa da fare sarebbe negare ospitalità alle legazioni». «Prego la sublimità vostra di riflettere su questa grave decisione», disse Guglielmo. «Voi avete tra le mani una lettera dell'imperatore che vi invita caldamente a...» «So cosa mi lega l'imperatore», disse bruscamente l'abate. «E lo sapete anche voi, e quindi sapete che purtroppo non posso recedere. Ma tutto questo è molto brutto. Dov'è Berengario?» «Sono solo un frate che ha condotto tanto tempo fa delle indagini inquisitorie. Non si trova la verità in due giorni? E infine, che potere mi avete concesso? Posso entrare nella biblioteca? Posso porre tutte le domande che voglio?» «Non vedo il rapporto tra i delitti e la biblioteca», disse secco l'abate. «Adelmo era miniatore, Venanzio traduttore, Berengario aiuto bibliotecario», spiegò pazientemente Guglielmo. «In questo senso tutti e 60 i monaci hanno a che fare con la biblioteca, così come hanno a che vedere con la chiesa. Perché allora non cercate in chiesa?» «Frate Guglielmo, voi state conducendo una inchiesta per mio mandato e nei limiti in cui vi ho pregato di condurla. Per il resto, in questa cinta di mura io sono il solo padrone dopo Dio, e per grazia sua, e questo varrà anche per Bernardo». Guglielmo rimase un poco silenzioso mentre l'abate si allontanava. Poi mi disse: «Soprattutto, Azzo, cerchiamo di non farci prendere dalla fretta. Le cose non si risolvono rapidamente quando si devono accumulare tante minute esperienze individuali. Io torno al laboratorio, perché senza le lenti non solo non potrò leggere il manoscritto, ma non converrà neppure che si torni stanotte in biblioteca. Tu vai a informarti se si sa qualcosa di Berengario». In quel momento ci corse incontro Nicola da Morimondo, l'attore di pessime notizie. mentre cercava di molare meglio la lente migliore, quella su cui Guglielmo riponeva tante speranze, essa si era rotta e un'altra, che poteva forse sostituirla, si era incrinata mentre provava a inserirla nella forcella. Nicola ci mostrò sconsolatamente il cielo. Era già l'ora del vespro e l'oscurità stava scendendo. Per quel giorno non si sarebbe più potuto lavorare. Un'altra giornata perduta, convenne amaramente Guglielmo, reprimendo, come mi confessò dopo, la tentazione di afferrare alla gola il vetraio maldestro, il quale d'altra parte era già abbastanza umiliato. Lo lasciammo alla sua umiliazione e andammo a informarci circa Berengario. Naturalmente nessuno lo aveva trovato. Ci sentivamo un punto morto. Passeggiammo un poco nel chiostro, incerti sul da farsi. Ma dopo breve vidi che Guglielmo stava assorto con lo sguardo perduto nell'aria, come se non vedesse nulla. Da poco si era tolto dal saio un rametto di quelle erbe che gli avevo visto raccogliere settimane prima e lo stava masticando, come se ne traesse una sorta di calma eccitazione. Pensavo a un modo di orientarci nel labirinto. Non è semplice da realizzare, ma sarebbe efficace. In fondo, l'uscita è nel torrione orientale, e questo lo sappiamo. Ora, supponi che noi avessimo una macchina che ci dice da che parte sta Settentrione. Cosa accadrebbe? Sarebbe meraviglioso, ma bisognerebbe avere questa macchina ed essa dovrebbe essere capace di riconoscere Settentrione di notte e in luogo chiuso, senza poter vedere né il sole né le stelle, e non credo che neppure il vostro Bacone possedesse una macchina simile, risi. E invece ti sbagli, disse Guglielmo, perché una macchina del genere è stata costruita e alcuni navigatori l'hanno usata. Essa non ha bisogno delle stelle o del sole perché sfrutta la forza di una pietra meravigliosa, uguale a quella che abbiamo visto nell'ospedale di Severino, quella che attira il ferro ed è stata studiata da Bacone e da un mago piccardo, Pietro da Maricourt, che ne ha descritto i molteplici usi. E voi sapreste costruirla. Di per sé non sarebbe difficile. Prendi un vaso pieno d'acqua e vi poni a galleggiare un sughero in cui hai infilato un ago di ferro. Allora andiamo a prendere la pietra di Severino e un vaso e dell'acqua e un sughero, disse eccitato. Piano, piano, disse Guglielmo. Non so perché, ma non ho mai visto una macchina che, perfetta nella descrizione dei filosofi, poi sia perfetta nel suo funzionamento meccanico, mentre la roncola di un contadino, che nessun filosofo ha mai descritto, funziona come si deve. Ho paura che a girare per il labirinto con un lume in una mano e un vaso pieno d'acqua nell'altra... Aspetta, mi viene un'altra idea. La macchina segnerebbe Settentrione anche se fossimo fuori dal labirinto, è vero? Sì, ma a quel punto non ci servirebbe, perché avremmo il sole e le stelle, dissi. Lo so, ma se la macchina funziona sia fuori sia dentro, perché non dovrebbe essere così anche per la nostra testa? La nostra testa? Certo che essa funziona anche fuori, e infatti da fuori sappiamo benissimo quale sia l'orientamento dell'edificio, ma è quando siamo dentro che non capiamo più niente. Appunto, ma dimentica ora la macchina. Pensare alla macchina mi ha indotto a pensare alle leggi naturali e alle leggi del nostro pensiero. Ecco il punto. Dobbiamo trovare da fuori un modo di descrivere l'edificio come è da dentro. E come? Useremo le scienze matematiche. Solo nelle scienze matematiche, come dice Averroè, si identificano le cose note per noi e quelle note in modo assoluto. Allora vedete che ammettete delle conoscenze universali. Le conoscenze matematiche sono proposizioni costruite dal nostro intelletto in modo da funzionare sempre come vere, o perché sono innate, o perché la matematica è stata inventata prima delle altre scienze e la biblioteca è stata costruita da una mente umana che pensava in modo matematico, perché senza matematica non fai labirinti. E quindi si tratta di confrontare le nostre proposizioni matematiche con le proposizioni del costruttore. E di questo confronto si può dare scienza, perché è scienza di termini su termini. In ogni caso, smettila di trascinarmi in discussioni di metafisica. Ma che diavolo ti ha morso oggi? Piuttosto, tu che hai occhi buoni, prendi una pergamena, una tavoletta, qualcosa su cui far segni e uno stilo. Bene, ce l'hai, bravo Azzo. Andiamo a fare un giro intorno all'edificio, sino a che abbiamo ancora un poco di luce. Girammo dunque a lungo intorno all'edificio, e cioè esaminammo da lontano i torrioni, orientale, meridionale e occidentale, con le pareti che li collegavano. Perché quanto al resto dava sullo strapiombo, ma per ragioni di simmetria non doveva essere diverso da ciò che vedevamo. E quel che vedemmo, osservò Guglielmo mentre mi faceva prendere precisi appunti sulla mia tavoletta, era che ogni muro aveva due finestre e ogni torrione cinque. Ora ragiona, mi disse il mio maestro. Ogni stanza che abbiamo visto aveva una finestra, meno quelle a sette lati, dissi. Ed è naturale, sono quelle al centro di ogni torre, e meno alcune che trovammo senza finestre e non erano eptagonali. Dimenticale, prima troviamo la regola, poi cercheremo di giustificare le eccezioni. Dunque, avremo all'esterno cinque stanze per ogni torre e due stanze per ogni muro, ciascuna con una finestra. Ma se da una stanza con finestra si procede verso l'interno dell'edificio, si incontra un'altra sala con finestra, segno che si tratta delle finestre interne. Ora, quale forma ha il pozzo interno, quale lo si vede in cucina e nello scriptorium? Ottagonale, dissi. Ottimo. E su ogni lato dell'ottagono possono benissimo aprirsi due finestre. Questo vuol dire che per ogni lato dell'ottagono ci sono due stanze interne? Giusto? Sì, ma le stanze senza finestra? Sono otto in tutto, infatti la sala interna a ogni torrione a sette lati ha cinque pareti che danno su ciascuna delle cinque stanze di ogni torrione. Con cosa confinano le altre due pareti? Non con una stanza posta lungo i muri esterni, perché vi sarebbero delle finestre, né con una disposta lungo l'ottagono, per le stesse ragioni e perché sarebbero allora stanze esageratamente lunghe. Prova infatti a tracciare un disegno di come possa apparire la biblioteca vista dall'alto. Vedi che in corrispondenza a ogni torre devono esserci due stanze che confinano con la stanza eptagonale e danno su due stanze che confinano con il pozzo ottagonale interno. Provai a tracciare il disegno che il mio maestro mi suggeriva e lanciai un grido di trionfo. Ma allora sappiamo tutto! Lasciatemi contare. La biblioteca ha 56 stanze, di cui 4 eptagonali e 52 più o meno quadrate, e di queste 8 sono senza finestre, mentre 28 danno sull'esterno e 16 sull'interno. E i 4 torrioni hanno ciascuno 5 stanze di 4 lati e una di 7. La biblioteca è costruita secondo un'armonia celeste a cui si possono attribuire vari e mirifici significati. Splendida scoperta, dissi. Ma allora perché è così difficile orientarvisi? Perché ciò che non risponde a nessuna legge matematica è la disposizione dei varchi. Alcune stanze consentono il passaggio a più altre, alcune a una sola, e c'è da chiedersi se non vi siano stanze che non consentono il passaggio a nessuna. Se consideri questo elemento, più la mancanza di luce e il nessun indizio fornito dalla posizione del sole, e vi aggiungi le visioni e gli specchi, capisci come il labirinto sia capace di confondere chiunque lo percorra, già agitato da un senso di colpa. D'altra parte, pensa come eravamo disperati noi ieri sera quando non riuscivamo più a trovare la strada. Il massimo di confusione raggiunto con il massimo di ordine. Mi pare un calcolo sublime. I costruttori della biblioteca erano dei gran maestri. Ma come accade, dissi ammirato, che siete riuscito a risolvere il mistero della biblioteca guardandola da fuori e non l'avete risolto quando eravate dentro? Così Dio conosce il mondo perché lo ha concepito nella sua mente come dall'esterno prima che fosse creato, mentre noi non ne conosciamo la regola perché vi viviamo dentro trovandolo già fatto. Così si possono conoscere le cose guardandole dal di fuori, le cose dell'arte, perché ripercorriamo nella nostra mente le operazioni dell'artefice, non le cose della natura, perché non sono opera della nostra mente. Ma per la biblioteca ci basta, vero? Sì, disse Guglielmo, ma solo per la biblioteca. Ora andiamo a riposare. Io non posso far nulla sino a domani mattina, quando avrò, spero, le mie lenti. Tanto vale dormire e levarci per tempo. Cercherò di riflettere. E la cena? Ah già, la cena. È passata l'ora ormai, i monaci sono già a Compieta, ma forse la cucina è ancora aperta, va a cercare qualcosa. Rubare? Chiedere a Salvatore, che oramai è tuo amico, ma ruberà lui. Sei forse il custode di tuo fratello? Domandò Guglielmo con le parole di Caino. Ma mi avvidi che scherzava e voleva dire che Dio è grande e misericordioso. E così mi misi alla ricerca di Salvatore e lo trovai presso alle stalle dei cavalli. Brunello, disse accennando a Brunello e tanto per attaccare il discorso, mi piacerebbe cavalcarlo. Non se puede, abbonis est, ma non bisogna un buon cavallo per correre forte. Mi indicò un cavallo robusto ma sgraziato. Anco quello sufficit, vide illuc, tertius equi. Voleva indicarmi il terzo cavallo, risi del suo buffissimo latino. E cosa farai con quello? Gli domandai e mi raccontò una strana storia. Disse che si poteva rendere qualsiasi cavallo, anche la bestia più vecchia e fiacca, altrettanto veloce di Brunello. Occorre mescolare nella sua vena un'erba che si chiama Satyrion, ben tritata, e poi ungere le cosce con grasso di cervo. Poi si sale sul cavallo e prima di spronarlo gli si volge il muso a levante e gli si pronuncia nell'orecchio 3 volte a voce bassa le parole Gaspare, Melchiorre, Merchisardo. Il cavallo partirà di gran carriera e farà in 1 ora il cammino che Brunello farebbe in 8 ore se gli si fosse appeso al collo i denti di un lupo che il cavallo stesso correndo avesse ucciso. La bestia non sentirebbe neppure la fatica. Gli chiesi se aveva mai provato. Mi disse avvicinandosi circospetto e sussurrandomi all'orecchio col suo alito invero sgradevole che era molto difficile perché il Satyrion viene oramai coltivato solo dai vescovi e dai cavalieri loro amici che se ne servono per accrescere il loro potere. Posi fine al suo discorso e gli dissi che quella sera il mio maestro voleva leggere certi libri in cella e desiderava mangiare lassù. «Faccio mi!» disse. «Faccio il casio in pastelletto!» «Com'è?» «Facilis! Piglia il casio che non sia troppo vecchio né troppo insalato e tagliato in feteline a bocconi quadri o sicut te piace, et poste ammetterai un poco de butierro vero destructo fresco al rechauffé sopra la brasia, e dentro vamos a poner 2 fette de casio e come te pare sia tenero, zuccarum et cannella supra positurum dubis et mandalo subito in tavola che se vuole mangiarlo caldo caldo. Vada per il casio in pastelletto, gli dissi, ed egli scomparve verso le cucine dicendomi di attenderlo. Arrivò 1/2 ora dopo con un piatto coperto da un panno. L'odore era buono. «Tene!» mi disse, mi allungò anche una lucerna grande e piena di olio. «Perché fare?» chiesi. «Se pa moi!» disse con aria sorniona. «Filais tuo magister vuole ire in loco buio esta noce!» Giunti nella navata, vedemmo un'ombra davanti all'altar maggiore. Credevo fosse ancora Ubertino. Invece era Linardo, che a tutta prima non ci riconobbe. Disse che oramai era incapace di dormire e aveva deciso di passare la notte pregando per quel giovane monaco scomparso. Non ne ricordava neppure il nome. Pregava per la sua anima, se fosse morto, per il suo corpo se giacesse infermo e solo da qualche parte. «Troppi morti», disse. «Troppi morti, ma era scritto nel libro dell'Apostolo. Con la prima tromba venne la grandine, con la seconda la terza parte del mare, e venne sangue. E uno lo avete trovato nella grandine, e l'altro nel sangue. La terza tromba avverte che una stella ardente cadrà nella terza parte dei fiumi e delle fonti. Così, vi dico, è scomparso il nostro terzo fratello e temete per il quarto, perché sarà colpita la terza parte del sole e della luna e delle stelle, così che sarà buio quasi completo. Mentre uscivamo dal transetto, Guglielmo si chiese se nelle parole del vegliardo non vi fosse qualcosa di vero. Ma, gli fece osservare, questo presupporrebbe che una sola mente diabolica, usando l'Apocalisse come guida, avesse predisposto 3 scomparse, ammesso che anche Berengario sia morto. Invece sappiamo che quella di Adelmo fu dovuta alla sua volontà. «È vero», disse Guglielmo. Ma la stessa mente diabolica o malata potrebbe avere tratto ispirazione dalla morte di Adelmo per organizzare in modo simbolico 2 e, se così fosse, Berengario dovrebbe trovarsi in un fiume o in una fonte e non ci sono fiumi o fonti all'abbazia, almeno non tali che qualcuno ci possa annegare o vi possa essere annegato. Ci sono solo dei bagni, osservai quasi per caso. Azzo, disse Guglielmo, sai che questa può essere un'idea? I balnea! Ma vi avranno già guardato. Ho visto i servi stamane, quando facevano le loro ricerche, hanno aperto la porta della costruzione dei balnea e hanno dato un'occhiata intorno senza frugare. Non si attendevano ancora di dover cercare qualcosa di ben nascosto. Si aspettavano un cadavere che giacesse teatralmente da qualche parte, come il cadavere di Venanzio nell'orcio. Andiamo a dare un'occhiata. Tanto fa ancora buio e mi pare che la nostra lucerna arda ancora con gusto. Così facemmo e aprimmo senza difficoltà la porta della costruzione dei balnea a ridosso dell'ospedale. Riparata l'una dall'altra mediante ampie tende, stavano delle vasche, non ricordo quante. I monaci le usavano per la loro igiene quando la regola ne fissava il giorno e Severino li usava per ragioni terapeutiche, perché nulla come un bagno può calmare il corpo e la mente. Un camino in un angolo permetteva facilmente di scaldare l'acqua. Lo trovammo sporco di cenere fresca e vi giaceva davanti un gran calderone rovesciato. L'acqua era attingibile da una fonte in un angolo. Guardammo nelle prime vasche, che erano vuote. Solo l'ultima, celata da una tenda tirata, era piena e accanto vi giaceva ammucchiata una veste. A prima vista, alla luce della nostra lampada, la superficie del liquido ci apparve calma, ma come il lume vi batté sopra, vi intravedemmo sul fondo esanime un corpo umano, nudo. Lo tirammo lentamente fuori, era Berengario. E questo, disse Guglielmo, aveva veramente il volto di un annegato. Le fattezze del viso erano gonfie, il corpo bianco e molle privo di peli pareva quello di una donna, salvo lo spettacolo osceno delle flaccide pudenda. Arrossì, poi ebbi un brivido. Mi segnai, mentre Guglielmo benediceva il cadavere. Moni Ovadia ha letto Il nome della rosa di Umberto Eco. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Chiara D'Ambros. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.